Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. Attraversami il cuore, il peso della solitudine è variabile. L'amore si può mancare per un attimo. Attraversami il cuore. E quante volte ci ha attraversato il cuore lei? Come possiamo definirla? La ragazza con la chitarra più magnetica che ci sia in circolazione da diversi anni. Questo sarà un ventennio e più. Però avete già riconosciuto naturalmente dalla voce questa bellissima canzone nuova. Però, come al solito, il rito qui a Storielle è, prima di presentare l'ospite, che si autodefinisca con tre aggettivi. Potendo mentire direi brava, buona e simpatica. Insomma, allora questa è falsa modestia, diciamo, perché non hai mentito affatto. No, ma gli aggettivi si possono sprecare, ma sono molti anche quelli negativi, in fondo. Per tutti, immagino. Sì, no? Sì. E cambiano a seconda della stagione. In questo periodo. Che stagione siamo, secondo te? Sono per te? Nella stagione del perfezionismo e quindi della di scatole, diciamo. Totale. Però è il momento anche della gioia, perciò c'è la felicità di voler anche raccontare un disco assolutamente inedito per me, nuovo, completamente nuovo, non soltanto perché sono canzoni nuove, ma perché è proprio nuovo il concetto. E il tema centrale. Il tema centrale non l'ho mai affrontato nella mia vita, e invece oggi con questo disco lo affronto, perciò ecco, una grande gioia, grande elettricità. E poi una punta di simpatia, ecco. Beh, in tutto questo non guasta. Allora, lei, ormai lo sapete, l'avete sentito, è Paola Turci. E vado a riprendere i tre aggettivi. Brava, lo sappiamo, cos'è, da 23-24 anni, il tuo esordio 1986 a Sanremo, quindi insomma, su quello 24. Non c'è niente da dire. Buona, direi, anche da donna. Non buona posso nel senso di lo buona. Dico. Ah, buona, intendete. Io dico anche buona. No, buona come pane, no. Buona. Buona e buona, Paola Turci, che è detto da me, non credo che si offenda, è vero. E poi è simpatica, questo lo sappiamo da tempo e ce lo stai confermando in questo momento. Paola Turci, quindi, che è ritornata con questo album, avete già avuto un piccolo assaggio, molto intenso, molto bello, devo dire con grande sincerità, Attraversami il cuore. E tu dici che è un tema nuovo, che io non trovo nuovissimo nelle tue canzoni, nel senso che tu hai fatto soprattutto brani di impegno sociale, di un certo tipo, però l'amore un po' sempre ha attraversato qualche canzone tua, no? Me ne ricordo, insomma. Sì, è vero, ma il più delle volte non l'ho scritta, e se l'ho scritta era, diciamo, uno sfogo sentimentale, quindi nello sfogo c'era anche lo sdegno. Spesso lo sdegno. Perciò ecco, diciamo che non c'è stata mai quella declinazione all'ottimismo e alla serenità. Alla dolcezza. Ecco, al romanticismo, alla dolcezza che invece, di cui l'amore è fatto, insomma, quindi. Che impregna completamente questo album. Però su questo tema così importante e poi così centrale del tuo ultimo album, ci ritorniamo, dicevo, sull'amore. Ritornando invece un po' nello spirito di Storielle ai tuoi esordi, abbiamo parlato prima del 1986, ma tornando molto prima, non moltissimo prima, insomma, tu sei nata a Roma, cantautrice romana, Paola Turci, ed è vero che la spinta in qualche modo te l'ha data la fascinazione che ti dava tua madre quando cantava? Sì, è vero, avevo quattro anni e ho questa immagine di mia mamma davanti al jukebox, insomma avevo 3 anni quindi c'era ancora il jukebox e metteva la moneta e sceglieva sempre un paio di canzoni di Mina e si metteva a ballare e quell'immagine lì mi ha dato quell'immagine, quel suono, perché poi si metteva anche a cantare, una voce anche molto canta bella. Bene. Sì, canta bene. Cantava, insomma, adesso non l'ho detto, sono tanti anni che non la sento cantare. Lascia cantare te, giustamente. Sì, può darsi. Però ecco, quell'immagine lì e quindi quello è stato il mio primo approccio alla canzone. perché da lì, proprio da quando avevo 3 anni, 4 anni, ho cominciato a imparare le canzoni a memoria, quindi avevo già tutto un repertorio di Mina, di Ornella Vanoni, di Patti Pravo, le cantanti quelle più fascinose, quelle che mia mamma amava imitare, no? Più passionali, quindi, no? Più, sì, coinvolgenti, quelle che potevano sviluppare un po' il fanatismo della donna, no? E quindi loro con questi atteggiamenti, con queste movenze con le mani, ti ricordi di Mina, ma anche Patti Pravo, certo, sì. Patti Pravo pure, un grande charm, insomma, cantavano e interpretavano le loro canzoni, e quindi io estasiata da questa immagine di femminilità unita a questo canto, a questo bel canto, no? Che comunque prevaleva quello delle cantanti, insomma, non quello di mia mamma. Allora lì mi si è aperta una strada dentro che mi ha fatto capire poi nel tempo che ero innamorata della musica, insomma. sì. E poi quando c'è stato il fidanzamento ufficiale con la musica? Il fidanzamento ufficiale, c'è stato quando sono stata poi costretta a decidere cosa volevo fare della mia vita, quindi se andare all'università, i miei spingevano per l'università, ma io, insomma, volevo affrancarmi dalla vita di coppia familiare subito, e quindi volevo subito lavorare, però amavo la musica, volevo soltanto fare musica. Ed è successo però, sì, con l'incontro artistico, diciamo così, quando ho ascoltato la prima volta il disco di Patti Smith. Patti Smith e Rolling Stones, ma Patti Smith, essendo una donna, certo, insomma, quella che mi ha colpito maggiormente, e da lì, insomma, è partito tutto poi la visione della musica come mestiere di vita. Storielle. Storiacce. Sempre Roberta Giordano con voi e con me Paola Turci, brava, buona, simpatica, ho detto questi gli aggettivi con cui si è definita, e ci stava raccontando ovviamente la sua storia, i suoi esordi, questo fascino che la mamma le trasmetteva per la musica, le canzoni, quando cantava le canzoni di Mina davanti al jukebox, e poi a un certo punto ha capito che quella era la sua strada. E l'esordio, dicevamo, 1986, Sanremo, al quale tu hai partecipato, sì, in totale 9 volte, no? Se, sì, non sbaglio, sì, era, sì, L'uomo di ieri. L'uomo di ieri. Il tuo primo brano. La mia prima televisione. La tua prima televisione. Come ti sentivi in quel momento, te lo ricordi? Me lo ricordo benissimo, perché era un momento di grande incoscienza, nulla mi faceva tremare fino al momento in cui stavo per uscire sul palco e dietro di me è passata Donatella Rettore vestita da angelo, quindi con delle ali alte 2 metri modi estrosi e dei tacchi da 25 centimetri. Quindi ho visto questa figura incredibile, insomma, onirica, e niente, lì mi ha preso uno spavento incredibile, che ho detto: dove siamo qui? Dove mi trovo? Che devo fare? Io devo che fare cosa l'angelo, mi devo applicare? E allora lì mi ha preso il panico, sono salita, e Loretta Goggi mi stava presentando, proprio il momento della presentazione è passata la Rettore, mi ha fatto questo effetto, e quindi sono salita sul palco. Ma ti sei chiesta, basterò così senza costume? Senza abbardamenti? Sì, mi sono sentita molto piccola, poi avevo 21 anni, perciò veramente, sì, veramente piccola. E da lì però è cominciato tutto, è cominciato il mio lavoro. A parte tua mamma, ma c'è stato un incontro speciale che ti ha portata definitivamente su quella strada e poi ti ha permesso anche di esordire a Sanremo e di prendere il volo? Ho avuto all'inizio 2 incontri importanti. Il primo è stato ovviamente il discografico di questa etichetta indipendente che si chiamava IT, che mi ha subito fatto firmare la proposta a Sanremo e un contratto di 5 anni. Però, subito, immediatamente, nel giro tempi, di 15 giorni. No, il contratto per i 5 anni nel giro di mezza giornata, dalla sera alla mattina. E invece il contratto nel giro di 15 giorni per la partecipazione a Sanremo. E poi un altro incontro importante l'ho avuto con Gaio Chiocchio, che è stato un grande autore ed è la persona che non c'è più oggi, ma è la persona che mi ha permesso di accendere il mio registratore, di far ascoltare a lui in privato le cose che io facevo. Nessuno fino ad allora ci aveva provato. Io volevo far sentire qualche cosa, perché io scrivevo. Lui è stato l'unico. Erano già passati degli anni, quindi ho cominciato nell'86, la prima canzone l'ho scritta nel 92. Perché prima era interprete, poi sei diventata cantautrice, insomma, autrice sì, di te stessa. Sì. Però e paradossalmente, la chitarra ce l'avevi dall'inizio, sì. No? Questa immagine tua così bella e per certi versi, almeno in Italia, un pochino controcorrente, no? Non erano moltissime. Sì, la chitarra più o meno dall'inizio, ma la chitarra è stata una scelta per me dovuta alla voglia di essere me stessa, la voglia di esprimermi e di presentarmi, di propormi come davvero ero. Sono nata con la chitarra, ho cominciato a 11 anni a suonare la chitarra ed è per questo che scrivo poi prima la musica che le parole, anche se questo mi porta, come dire, a generare un lavoro più impegnativo, perché insomma scrivere la musica prima è sempre più un po' più difficile per poi mettere le parole. Però è stato importante, perché intanto l'esprimere me stessa mi ha dato la possibilità di capire di più me stessa, e poi appunto dicevo, l'incontro con Gaio mi ha permesso di aprirmi alla composizione. Qual è il più bel ricordo che hai della tua infanzia o della tua vita romana? Poi hai vissuto diversi anni a Milano, poi adesso sei tornata a Roma, ma di quegli anni in cui eri piccola, ragazzina? Il ricordo più bello è una pista di pattinaggio che dopo scuola io praticamente mi facevo tutta sempre per un paio d'ore e quello è uno dei ricordi più belli che ho proprio della mia infanzia, perché ho cominciato a pattinare dai 7 fino ai 14 anni, perciò insomma 7 anni quasi tutti i giorni, un paio d'ore, e poi dopo tornavo a casa e suonavo. Questa era un po' la mia vita, ecco. Quindi compiti pochi, non studiavo tantissimo, però insomma avevo la capacità poi di recuperare all'ultimo momento. Sono quella dell'ultimo momento, no? Quella che studia alla fine. L'importante era riuscire, e poi hai capito dentro di te quali erano le tue priorità e qual era il talento, certo, da seguire. Infatti, no? Ho mollato il pattinaggio e mi sono sempre più dedicata alla musica. Mi ricordo che insomma rinunciavo molto volentieri a uscire con gli amici, andare in discoteca per rimanere a casa a suonare. Rimanere a casa a scoprire nuovi accordi, a scoprire nuove canzoni da suonare alla chitarra e da cantare. Insomma, hai fatto bene, evidentemente. Ma ti reputi una donna coraggiosa? Mi viene in mente l'incidente del 93, le cose che hai passato, però insomma immagino che ci siano state anche altre difficoltà nella tua vita. Sei coraggiosa tu? Sì. Ma non credevo, e l'ho scoperto con l'incidente, è venuta alla luce questa caratteristica che non credevo di avere. Sì, sono coraggiosa nel momento del bisogno, però. Quando c'è l'urgenza, quello non è il necessario. Prima. No, sono coraggiosa, più che altro sono abbastanza, sì, oso, ecco. Oso. Beh, sai, io sono una cantante, sono una scrittrice, diciamo, recente. Hai scritto anche un romanzo, no? Ho scritto un romanzo, ho condotto un programma radio, faccio delle cose assurde, insomma, che sono ti misuri, impensabili. Ti provi, sì, mi provo e mi provoco. E ritorniamo attraversami il cuore. Quindi dicevamo, il tema centrale è l'amore. Quindi adesso sì, ti prendi la responsabilità, Paola Turci, di dire tutto quello che sai sull'amore. Tutta la verità, vi prego, sull'amore. Io tutto quello che so è tutto quello che so, non so niente sull'amore. Per questo che probabilmente ne ho sentito proprio questo bisogno di scrivere, di cantare un disco d'amore. Però ecco, racconto attraverso queste canzoni che l'amore veramente è inspiegabile a parole. Non si può tradurre e non si deve tradurre. Cioè c'è, ma è il mistero. Cioè per me l'amore è mistero. Ma una volta accettato questo mistero, una volta, come dire, considerato il fatto che si prova, non c'è niente da fare, si sente, ma si sente attraverso che ne so, la soddisfazione che provi nell'aver fatto qualcosa di buono per qualcuno, anche per la società, per l'ambiente, oppure questa sensazione fortissima che hai nei confronti di un bambino che nasce, di un tuo nipote. Io ho 4 nipotini che sono nati a distanza ravvicinatissima, di mia sorella e di mio fratello, quindi 2 maschi di mio fratello, 2 femmine di mia sorella, tutti piccoli. Cioè, questa è stata una rivoluzione nella mia vita incredibile. Quindi questo amore racconto, cioè la sorpresa, lo stupore nell'emozionarmi, nel commuovermi di fronte a qualcosa che magari che hanno tutti. Che però per te è speciale, come per ognuno poi, no? Come per ognuno di noi. Cantare l'amore, parlare d'amore è molto molto difficile, perché cioè, è un attimo che scivoli nella retorica, nel banale, nell'ovvio. Però è vero che così misterioso e indicibile, tanto è vero che se ne può parlare all'infinito, no? E non finisce, non ci si stancherà veramente mai. Non concludo mai sulla storia dell'amore, ma però dentro sì, dentro la sento completata, realizzata. ma a esprimerla, e infatti insomma poi ci pensano le canzoni a farlo. Poi scrivi in una delle canzoni: l'amore si può mancare per un attimo, ti è successo spesso? Probabilmente sì. Probabilmente sì. Ti è passato accanto, però succede, non... probabilmente sì. Però adesso l'hai colto ultimamente? Sì, sì, l'ho colto. E adesso, insomma, cerco di essere un po' più brava di prima, più cosciente, però senza rinunciare alla passionalità che può suscitare l'amore. Però ecco, l'ho scritto nella canzone che apre il disco, che si intitola Sono io, no? E dico, sono io quella che sbaglia, che confonde la passione con l'amore, togliendosi ogni voglia. E l'ho fatto... E sei proprio tu? Sì, sì, sono io. Quella è una confessione. Infatti. Confessione, sai, notturna. L'ho scritta una notte, svegliandomi di soprassalto... E ti sei guardata allo specchio? Sì, sì, ma no, grazie a Dio no, non ho neanche acceso la luce. Ho guardato metaforicamente, certo, però non ho acceso la luce. Ho preso il quaderno e al buio ho scritto, come mi capita spesso, ogni tanto di fare, perché non faccio in tempo ad accendere la luce e devo fare in fretta a prendere il quaderno. Allora lì, quella notte è venuta fuori una cosa molto più lunga di quella che poi ho scritto. Ho tagliato qualche cosa, insomma, cioè era un eccesso. Hai fatto un riassunto di te. Quindi se volete sapere qualcosa di più intimo, di più intenso di Paola Turci rispetto allo spazio che abbiamo chiesto, sono io all'inizio. Senza dell'album. Dover scadere nel pettegolezzo, ovviamente. Però sai, la canzone d'amore l'ho sempre vista e ci avevo sempre avuto questo pudore nell'affrontarla. Una rivelazione di te. Anche perché appunto raccontavo un po' troppo dell'intimità, ma alla fine poi le canzoni parlano. Se le scrivi hanno a che fare col tuo vissuto, certo. Non c'è niente da fare. E se non sbaglio, questo album, Attraversami il cuore, è solo la parte di un progetto in tre fasi, no? E sì. L'ultima mi pare che sia proprio dedicata all'universo femminile, autrici che stanno scrivendo... per te canzoni. Sì, autrici, cantanti oppure scrittrici che proveranno a scrivere. Io mi auguro di diventare semplicemente un interprete, ma... Bello però, tutto di donne che scrivono. Solo donne, sì, solo donne. Con racconti, mi auguro, forti, intensi, come insomma le donne sanno fare. Ma sai, ne ho fatte tante di esperienze al femminile, non sì. Ultima quella di San Siro, per esempio. Sì, io c'ero lì per raccontare per Radio 24 Amiche per l'Abruzzo. Amiche per l'Abruzzo è stata giugno. Bellissima. Una giornata bellissima. E devo dire che Paola Turci era splendida insieme a Marina Rei e Carmen Consoli, che tutte e tre suonavano una band proprio sì. Bello. Forse è stato per me personalmente la parte più bella dello spettacolo. Beh, guarda, a un certo punto, questa me la sono proprio segnata nel cuore, a un certo punto ero sul palco, mi sono girata verso le componenti della mia band e ho visto Carmen Consoli con il basso, Marina Rei alla batteria. E mi sono detta, ci siamo, cioè ho questo momento di infinita realizzazione, mi sento come aver realizzato qualcosa di grande, sono appagata, ecco. Allora, concludendo, Paola Turci, questa vedi qua è la lampada di Aladino. Ah, che bella. Ecco. Se tu dovessi esprimere un desiderio? Beh, vorrei che venisse quantomeno esaudito il desiderio della marcia della pace. C'è una marcia mondiale della pace che è partita il 2 ottobre e che passerà per l'Italia il 7 novembre, che auspica il disarmo nucleare mondiale. Questo, anche se sembra una cosa che è molto lontana da noi, questo per me invece sarebbe qualcosa che ci farebbe andare avanti anni luce rispetto a come stiamo. E poi veramente non è una forma di altruismo, davvero. Non, ma tu lo sei, lo sono, so. No, sei ma impegnata sono in tante cose sociali. Altruista al pari di tutte le altre persone che vivono questo mondo. Dopo il disastro di Messina, disastro annunciato peraltro, mi piacerebbe che venisse bonificato tutto il territorio italiano, perché non sono più i tempi in cui si può fare finta di niente come prima. E quindi venissero messe a posto tutte le aree a rischio frane, a rischio smottamenti, a rischio terremoti, perché nel 2009, nel 2010, con le possibilità tecnologiche che abbiamo, non è più pensabile di vedere crollare dei palazzi, ecco. Perciò quello è una cosa che proprio desidererei e metterei dentro la lampada di Aladino e vorrei vedere realizzata nel giro veramente di poco. E questa per me sarebbe la più grande opera che in Italia può essere compiuta. Intanto tu però, Paola Turci, attraversaci sempre il cuore. Io sì, io sono una cantante, quindi quello faccio. Grazie Paola. Grazie a te, a voi, ciao. Un chiaro frammento di luce, questo tu sei. E tra i sentieri scuri della notte mi accompagnerai. E i miei sogni sveglierai dentro un'alba silenziosa.